che è? E che avanti su 10, ma sei matto, aspetta un attimo, prova a sollevare il sistema che non ti sento bene. Hola, hola, hola, hola cane 10, sto uscendo? È basso, sei, sei molto basso, radio 2-3, non di più, è mezzo a quel rete. Aspetta che regolo. Attenzione canale 10, c'è qualcuno in ascolto?